Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Giorgio De Luca, nostro autore, Federico Bin in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bah, guarda, ieri sera mi sono dovuto sciroppare Cracco, Bastianic e tutta la compagnia di Masterchef. Ma pensavo solo a Roma Milan, che somiglia tanto a un reality con Garcia e Mihajlovic nominati, chi perde fuori. Ieri l'ho saltata, anche perché sono andato dietro. Non riesco neanche a dirlo, vedi, non riesco a dirlo. Quindi questo essere dietro mi metto a guardare anche i reality sul cibo, che finisce malissimo. No, Roma Milan è bellissima. Il paradosso è che insomma, è crudele, è bellissima e crudele. Sì, cioè, diventare ancora più bella proprio per gli insuccessi parziali, per carità, ma gli insuccessi di queste due squadre. E quindi insomma, è veramente drammatica sì, nel senso proprio letterale. Sì, no, drammatica, sportivamente drammatica. Intanto sono già stati nominati da Mihajlovic, Cerci, che non è uscito soltanto dai social network e da tutti i profili del mondo, ma anche dalla lista dei convocati per domani a Roma, e Alex pure fuori dalla lista dei convocati. Ha parlato invece, ha già parlato Garcia, che insomma lo sa anche lui che è in bilico, inutile nasconderlo, anche se lo nega. Non mi importa, non ho tempo da perdere con queste domande, non me la faccio la domanda. Ovviamente che direte ancora, dice sempre le stesse cose, che è la partita che arriva che conta, ma il calcio è così, niente altro. Ho deciso di avere una comunicazione neutra, perché chi vince può aprirla e chi non vince deve essere zitto e lottare e soprattutto lavorare, è quello che faccio. Dunque ha scelto di avere una comunicazione neutra, Garcia. Ha parlato anche del... Che vuol dire? Ah, non lo so, non ho capito. No, vabbè, credo... Cioè, comunicazione neutra vuol dire non dico nulla. No, a parte le battute, credo che l'abbia spiegato dopo. In qualche modo ricorda Berlusconi di un mesetto fa, no? Mm-hmm. Quando si vince si parla, quando si perde si lavora. È lo stesso discorso, è un discorso anche condivisibile. Perché è evidente che, insomma, c'è poco da parlare. Servono i fatti che però non arrivano. E c'è anche una partita, come detto, estremamente pericolosa per entrambe. Garcia ne ha parlato, sentiamo se è meno neutra questa dichiarazione. Domani dobbiamo ritrovare la vittoria, perché è una cosa logica e matematica, non serve di parlare di classifica. Finché non vinciamo facciamo una striscia di vittorie, non l'abbiamo fatto a Chievo e dobbiamo iniziare di nuovo una striscia di vittoria domani contro il Milan. Non c'è niente altro da fare e dopo potremo riparlare di tutto. E la striscia di vittorie però è complicata, per questa Roma che subisce gol con tutti. Lippi, Prandelli, Brocchi da una parte, essenzialmente Spalletti oppure l'eterno vice Viviani come traghettatore dall'altra. Difficile fare scelte programmatiche al di là delle strisce di vittoria, difficile fare scelte programmatiche a gennaio per Luigi. Sì, ma guarda, io penso, per quanto riguarda il traghettatore, no? La figura del traghettatore, così che in gergo, Spalletti non lo è, e io penso che dietro l'atteggiamento fin qui prudente della Roma, che ha difeso le scelte fino a questo momento di Garcia, comunque non lo ha esonerato, ci sia soprattutto questo, cioè la voglia di ripartire l'anno prossimo con un nuovo progetto, e quindi la difficoltà in questo momento nel trovare un allenatore per 6 mesi. Spalletti secondo me è un allenatore, io lo dico, secondo me è un allenatore fantastico, bravissimo, è certamente non è un semplificatore, non è un aggiustatore, non è un allenatore che arriva lì e risolve in tutto il mondo. Un allenatore che ha una grande qualità del gioco, ha delle idee molto alte dal punto di vista calcistico, ha bisogno di giocatori e di apprendimento, quindi chiaramente è una soluzione da lungo periodo, non da breve periodo. Sì, certo, questo sì. La Roma si è navigata a vista, però ha fatto di tutto per non cacciare il proprio allenatore, e fino a questo momento insomma è rimasto in sella, nonostante già 4-5 volte sia pensato, no, a livello di stampa, che possa arrivare al suo momento. Sì, ma sull'altro fronte nemmeno il nome di Lippi potrebbe essere quello di un traghettatore. Cioè, io non credo che il commissario tecnico d'Italia, campione del mondo, che comunque ha voglia di tornare, possa accettare un incarico in panchina a tempo determinato. Magari, assolutamente. Magari con sì, un altro ruolo. Può fare esatto. Direttore tecnico, può fare l'uomo guida della società, può rivestire un altro ruolo, un altro profilo, cosa che ho detto tempo fa io vedrei bene anche con Capello alla Roma, peraltro. Sì. Io meglio di tutti vedo Conte comunque, per tutte e due le squadre, insomma, cioè, secondo me la soluzione preferibile è quella lì. Quella di Conte. Però per arrivare a quella soluzione lì devi innanzitutto convincere Conte, ed è chiaro che oggi tu con alcune società, soprattutto inglesi, non puoi rapportarti. Cioè, se il Chelsea per qualche motivo decide che Conte è l'allenatore del futuro, Conte va al Chelsea, non è che c'è da discutere, e secondo me non gliene si può neanche fare una colpa, anzi ci saranno i complimenti con un pizzico anche di invidia, perché vorremmo essere al posto suo. Ci sono 3-4 società in giro per l'Europa che se ti chiamano, appunto, non puoi dire di no, questo è evidente. Non puoi dire di no. Quindi è chiaro che Conte viene atteso alla fine dell'Europeo e ha una serie di controindicazioni tempistica. Certo, devi arrivare alla fine di questo casino che sta diventando la stagione di Milan e Roma, che comunque, l'ho detto ieri, lo ribadisco, io vedo accomunate anche da un altro fattore. Un denominatore comune è la confusione societaria che c'è su entrambi i fronti. La Roma con un presidente che sta a Boston e che in fondo, insomma, non è espertissimo di calcio, e con grande confusione tra quelli che invece sono qui, a cominciare da Sabatini, e il Milan che non si capisce bene dal punto di vista societario dove stia andando. Ragazzi, ci fermiamo, torniamo subito. 800 24 00 24 e come sempre siete tutti convocati. Traffico. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Tutti convocati. Tutti convocati. Perdono, se quel che fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si rosa. Perdono. Parte Quagliarella e c'è il gol dell'1-1, il pareggio di Quagliarella, il quinto gol, si sblocca, non segnava dal 20 settembre, la disperazione di Reina che ha visto il pallone vicinissimo. Quagliarella non esulta, però viene fischiato lo stesso, dicevi bene, perché Reina, vede, rivediamo, va sulla traiettoria, lo prende anche con la mano di richiamo sinistra, ma non arriva a deviare. Eccolo qui, Fabio Quagliarella, che non solo non ha esultato, ma ha avuto un gesto di rispetto nei confronti dei tifosi del Napoli, che però non gli evita dei cori, diciamo, non troppo simpatici. Se quel che fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Ovviamente a Napoli c'erano degli obiettivi, quello di migliorare l'annata precedente. Normale che la Juventus punta sempre al massimo. La Juventus punta a vincere lo scudetto, punta a entrare senza neanche pensarci in Champions, perciò sicuramente qui siamo uno step più avanti. Perdono, se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Il momento più bello di una partita di calcio, credo sia il gol proprio, il momento di esultanza. Secondo me bisognerebbe lasciare un po' libertà. Amicizia nuova, pace sì, che so come sono, infatti chiedo. E questa, Pierluigi Pardo, l'hai raccontata, no? Uno dei grandi, stavo parlando di telenovelas, di reality, di romanzoni, questa di Quagliarella. Abbiamo sentito il tuo racconto del gol su rigore, la sua mancata esultanza, quel gesto di scusa nei confronti della curva del Napoli, che poi lui ha spiegato: volevo soltanto chiedere di fare la pace per quelle dichiarazioni. Sì, Quagliarella è molto turbato da questo argomento. Guarda, te lo dico, sì. Non credo di dire niente di clamoroso. No, poi ha chiesto scusa ai tifosi del Torino, perché sì, lui ha sì, chiesto scusa ai tifosi del Torino, sono orgoglioso di indossare questa maglia, eccetera, eccetera. E poi scrive, specifica: io non ho chiesto scusa ai tifosi del Napoli per aver segnato il rigore, assolutamente no, ci mancherebbe. In quel frangente volevo soltanto dire basta ostilità, finiamolo una volta per tutte, sono un professionista, in quanto tale faccio il mio dovere, ma contro di voi non ho nulla. Sì, sì, questo è evidente. Il problema è che i tifosi del Napoli hanno qualcosa contro di lui, almeno una frangia dei tifosi del Napoli. Lui ci è rimasto male. Lui ci è rimasto male anche perché in quella stagione a Napoli, che non fu nemmeno poi così catastrofica, diciamo, dal punto di vista strettamente numerico, che poi si chiuse con il trasferimento alla Juve, e, insomma, tu parli con lui, lui ti dice che non è che ha fatto di tutto per volersene andare. Cioè, è la società che comunque l'ha venduto. L'ha venduta in quel momento il club che offriva di più era la Juve, e lui è finito alla Juve, ma sì. Insomma, lui è tifoso del Napoli fin da bambino, certo, a Napoli sognava di viverla in maniera molto diversa, di entrare nel cuore dei tifosi e di fare molto di più col Napoli, non ci è riuscito, in più è stato venduto alla Juve da professionista, ha accettato e ha fatto pienamente il suo dovere, insomma lui è un po' un nervo scoperto questo per lui, E quindi non mi sorprende la cosa dell'altro giorno, così come non mi sorprende che i tifosi del Torino si siano sentiti un po'... Sì, un po' offesi. Sì, sì. Non propriamente a loro agio, non propriamente d'accordo con il gesto del loro attaccante che non segnava da settembre, che aveva bisogno come l'aria di questo gol. Cosa ne pensa Roberto Cravero, secondo te, Pardo? Oh, Craverone, come stai, Cravero? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Cosa pensi di questa vicenda? Sai, c'è un precedente che forse fa più male ai tifosi del Toro di questo gesto col Napoli. Il precedente è che quando l'anno scorso fece gol alla Juve nel derby non esultò. Quindi questo gesto di Napoli va a sommarsi a un altro gesto comprensibile ma difficilmente capibile dai tifosi. Sì. Poi per me sarebbe stato peggio se avesse sbagliato il rigore. Poi però il rigore l'ha fatto, queste piccole polemiche. No, però Roberto, sì. Io in valore assoluto, poi questa vicenda dei contorni particolari, possiamo metterci un sacco di virgolette, però io sono stufo di vedere giocatori che quando segnano o perché sono in polemica con l'allenatore o perché magari hanno giocato 10 minuti con l'altra squadra, sembra che gli siamo appoggiati. Ma anche perché nel caso di Quagliarella, a me dà un fastidio proprio tremendo, come la palla sparata fuori sui cartoni pubblicitari ogni volta che qualcuno cade per terra. E nel caso di Quagliarella siamo a 4 questa stagione, tanto per fare un numero, siamo a 4 gol su 5 segnati da ex, e quindi questo ragazzo non risulta mai. Adesso lo dico per fare una battuta, però insomma è così. C'è chi scrive poi Quagliarella ha cambiato 10 squadre, non siamo ridicoli con la storia delle risultanze. O anche Borriello, io sono d'accordissimo con voi, io penso che bisognerebbe decidere da domani mattina, la civiltà ci chiede, ci impone di esultare, di esprimere il proprio entusiasmo di calciatore che fa il suo dovere e che senza dimenticare il passato, senza dimenticare gli affetti e le esperienze vissute, però nel momento del gol festeggia perché fa il suo dovere e ottiene un risultato, esattamente come noi festeggiamo quando qualcosa nella vita ci va bene, no? Quindi non c'è niente di male, non è che si deve offendere qualcun altro, non è che se oggi tu fai un bel lavoro e il tuo capo ti fa i complimenti non devi esultare perché sennò quello dell'azienda precedente si offende. È chiaro che il calcio è una materia molto diversa, molto particolare e ci vuole sensibilità, però secondo me la sensibilità nasce anche dalla difficoltà certe volte di raccontarsi, perché se i calciatori parlassero da questo punto di vista di più e raccontassero il loro punto di vista, secondo me sarebbe molto più semplice. Sì, invece di scrivere in 140 caratteri magari. Cioè io penso che se Quagliarella viene in televisione, l'ha fatto Quagliarella, sì, chiunque altro, viene in televisione e dice io ho affetto per tutte le squadre dove sono stato, magari qui di più, qui di meno, qui mi sono trovato bene, qui mi manca questo, però adesso io sto qui, faccio il mio dovere, se segno non mi togliete questa gioia. Chiaro, ma poi non togliete neanche, non va tolta nemmeno ai tifosi, questo è il punto. Assolutamente, assolutamente. Ma io penso che siano proprio i tifosi i primi a capire se succedesse questo. I giocatori molte volte si creano dei problemi dove non ce ne sono. Secondo me il fatto che un giocatore esulti contro una sua ex nel momento che fa gol, i primi a capire sarebbero proprio i tifosi delle due squadre. Questa moda di non esultare, che penso esista solo da noi, come tutte le usanze peggiori, quelle che buttiamo fuori il pallone, le trattenute in area. È un'altra roba che non sopporto, ma no, Roberto. Guardiamo anche le trattenute in area, cioè succedono solo da noi. Poi ci stupiamo se andiamo all'estero e ci danno rigore per delle trattenute su calcio d'angolo. E quindi purtroppo, nel bene e nel male, abbiamo grandi pregi, però molte volte se analizziamo i difetti sono più grandi dei pregi che abbiamo. Vi ricordate il primo gol di Rooney dopo aver lasciato l'Everton? Andò, se non sbaglio, prima giornata di campionato, giocò contro la sua ex squadra con la maglia dello United, gol e risultanza clamorosa. Per cui per me quello è lo spirito. Però da questo punto di vista forse c'è bisogno di, non voglio dirti appunto una cosa ufficiale, però di un momento di attenzione per cambiare questa moda, perché questo è proprio un malcostume, è molto simile, in effetti hai ragione con quello che dicevi prima, anche se è completamente diverso, però è molto simile al discorso del pallone buttato fuori automaticamente quando uno si ferma, no? Che è un'altra cosa molto italiana, che viene fatta e sembra che se non la fai... Sembra che se non la fai sei un infame. Che no, ma infatti, ma da questo punto di vista io non dimenticherò mai Capello che su questo aspetto ha scritto una pagina di Vangelo Calcistico dicendo c'è l'arbitro che fischia, non voglio, proibisco ai miei giocatori di buttare fuori la palla, si va avanti a giocare. Così disse Capello e quella è la mia posizione che non cambierò mai. Ci fu forse una decina d'anni fa un cambio proprio di... che era vietato, veniva ammonito il giocatore che buttava fuori la palla. Poi però non si seguì questa norma e si tornò tutto come prima, se non sbaglio. Sì, tutto come prima e tutto in peggio. Senti Roberto, ti chiedo invece una cosa sul Torino. Prima parlavamo di scelte programmatiche che è difficile fare a gennaio per quanto riguarda allenatori García, Mihajlovic, che sono comunque... sull'orlo del precipizio calcistico. Il Torino invece mi sembra stia facendo scelte programmatiche non tanto scavando sul mercato ma rinnovando i contratti a molti giocatori, però la classifica comincia a piangere. Sì, la classifica non è, ti dico, l'entusiasmo che c'era inizio stagione adesso invece vivi un'atmosfera completamente diversa. È difficile in questo momento dire cosa è giusto, cosa è sbagliato. Loro in società hanno deciso di proseguire su questa linea che ha portato dei risultati più economici forse che di spettacolo, che di risultati. Beh, l'anno scorso non male, due anni fa pure, anche dal punto di vista dei risultati sportivi. Sì, due anni fa una qualificazione in UEFA, però con l'esclusione del Parma. Per guadagnata, il Torino non ha mai guadagnato una qualificazione UEFA, però a livello economico tanto, perché in quest'anno sono stati venduti Darmian, Cerci, quindi forse anche a livello societario è giusto tener conto anche di questo. In questo momento non bene, ma non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma anche dal gioco. Il Torino ha sempre dimostrato di giocare bene a calcio, sì. Forse il primo periodo che ha delle difficoltà. Sei d'accordo Pierluigi? L'hai visto contro sì, il Napoli? Sì, e poi ha secondo me un po' di sterilità offensiva. Sì, è quello. Perché alla fine Quagliarella 5 gol, Maxi Lopez 3 se non sbaglio, Belotti 1. Certo, non è riuscito a spremere gol da quell'attacco, cosa che negli altri anni faceva con una certa facilità. Esatto, adesso bisogna capire se Quagliarella si sblocca, perché Quagliarella comunque è il giocatore da doppia cifra più di gli altri che ha il Torino, e questo dovesse succedere le cose cambierebbero. Io non vedo una squadra in grandissima difficoltà, cioè non vedo una squadra con un'intelaiatura fragile, cioè tanto per dire le cose quest'anno non mi sembra che ci possano essere i rischi che invece secondo me potrebbero avere Palermo e Genoa. Mi sembra una squadra ancora assolutamente da metà classifica, che però sicuramente si è appannata un po', e qui poi possono esserci varie valutazioni o pure chi dice che a un certo punto gli allenatori dopo un po' di anni perdano la presa. Mi sembra ancora troppo presto e troppo poco per poter pensare a una cosa del genere. Io penso che Ventura in questi anni abbia fatto un grandissimo lavoro e ci siano tutte le condizioni per poter crescere. Poi Torino ha fatto anche, non dimentichiamocelo, con Cairo una serie di investimenti di prospettiva. Sì, ad esempio sì. Anche l'altro giorno Baselli ha confermato di essere un giocatore vero, un giocatore preso con Zappacosta per 10 milioni dall'Atalanta, aver tenuto Benassi, insomma secondo me è una squadra aver preso Belotti, che è stato il grande investimento riguarda Belotti, l'attacco che Belotti, non sta rendendo, però non sta Belotti rendendo. Dovrebbe fare qualcosa di più, quindi insomma secondo me è un anno questo di costruzione, è una filosofia secondo me quella di Cairo assolutamente condivisibile, assolutamente tutta, è un momento un po' di sofferenza, deve sbrigarsi Quagliarella, deve sbrigarsi Belotti a portare un po' di gol e far passare a nuttata, come dicono a te. Chiaro. Un'ultima cosa per Roberto Gravero. Tra le prime quattro un elastico spietato che potrebbe, secondo qualcuno, spezzarsi con il ritorno delle coppe o magari spezzarsi con il mercato. Oppure non spezzarsi del tutto e andare avanti così meravigliosamente fino alla fine. Io spero l'ultimo caso. Bravo anch'io. Spero l'ultimo caso. Nelle coppe credo poco. nel senso che si possa spezzare, credo molto che si possa spezzare sul mercato. Chi opererà meglio sul mercato, secondo me, farà quel piccolo salto di qualità che probabilmente lo porterà poi fino alla fine. Grazie Roberto. Grazie a voi, ciao. Grazie, un saluto. Un abbraccio. Ciao, Robby. Ciao. Prima della borsa, sentiamo Federico alla provincia di Forlì. Dai, Federico, buongiorno. Federico, ci siamo? Sì, no, Federico? Sì, sono in linea. È in linea. Mi sentite? Sì, dica. Sì. Niente, io volevo disquisire riguardo all'allenatore del Milan. Io penso che la colpa non sia sicuramente di Mihajlovic. Consideriamo che questo è il terzo allenatore che il Milan cambia e considerando che Ancelotti, che era stato invitato allenatore del Milan con una scusa, si è chiamato fuori perché ovviamente si è reso conto che con la squadra che ha il Milan, che è arrivata a 40 punti dalla Juventus nel campionato scorso e che ha fatto qualche acquisto, sicuramente un ragazzo promettente, Romagnoli, sicuramente un attaccante promettente, però la squadra sicuramente non è competitiva. Sì, poi non ha, secondo me, può. Guardi, Federico, io ad Ancelotti al Milan non ho mai creduto. Secondo me c'entra molto in un eventuale desiderio di ritorno di Ancelotti al Milan la prospettiva futura, non tanto la contingenza di una stagione che comunque tutti sapevano, Ancelotti compreso, sarebbe stata molto difficile. Ci fermiamo per la borsa? Sì, va bene. Poi c'è Raffaele da Torino, subito dopo. 800240024, numero verde. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Con Pierluigi Pardo sempre con noi, parliamo con Raffaele da Torino, altro convocato, 800240024, grazie per l'attesa Raffaele. Pronto, buongiorno. Senta, io sono d'accordo con quanto si diceva prima sui giocatori, sull'esultanza, che giustamente dovrebbero risultare, con garbo, ma dovrebbero risultare, ma questo purtroppo fa parte della cultura italiana, non solo sportiva, e mi riallaccio a quello che diceva ieri sulla sudditanza psicologica e come giustificazione, come diciamo risposta, come giustificazione, quello che diceva Pardo, io non ho mai avuto pressioni, non è riferito a lui naturalmente, ma in genere non è una giustificazione, perché è irrilevante, perché non c'è bisogno che il potente dica a chi è diciamo sotto, tra virgolette, ecco, fai in un certo modo che io poi ti aiuto. Cioè, quando l'arbitro va nelle grandi platee, sa che se si comporta in un certo modo avrà, però Raffaele, diciamo, mi sono perso i favori, però, ecco, sì, non c'è bisogno, ma mi sono perso un passaggio, cioè che cosa c'entra la mancata esultanza con nei confronti di una ex squadra di cui non sei più dipendente con il resto del discorso? No, secondo me dovrebbero esultare, però sì, dico non esultano, perché? Un po' perché secondo me molti giocatori sono infantili, è una moda. Ecco, così come può essere esultanza da quando Tardelli andava verso la panchina, così come adesso tutti vanno a dar la mano a tutti in panchina o alzano le mani al cielo tutti allo stesso modo, al cuore, cioè sono infantili. Vabbè, lo fa uno, lo fanno tutti, e qui la mancanza di sportività anche del pubblico italiano, fischierebbero in questo caso Quagliarello o anche gli altri che esultano quando fanno un gol contro la ex, invece di rispettarlo, perché dà il massimo, certo, nella sua prestazione. Sì, non c'è dubbio, infatti io appunto arrivo a dirti che forse è veramente la classica cosa dove bisognerebbe fare un po' di campagna di comunicazione, nel senso che tra virgolette quello che lei dice è assolutamente vero, cioè secondo me non c'è discussione, è ovvio che fischierebbero se Quagliarello l'altro giorno avesse esultato come un pazzo, l'avrebbero fischiato per i 20 minuti successivi ancora di più ogni volta che toccava il pallone, su questo non ci sono dubbi. Faccio l'esempio dell'altro giorno perché c'era già un rapporto in qualche modo teso e polemico con quel tipo di tifoseria, ma insomma in generale anche in altre situazioni. Però appunto, essendo questo veramente un malcostume e una moda secondo me sbagliata, forse è il caso veramente di fare un po' di comunicazione su questo per dare anche maggiore libertà ai calciatori, sì. Maggiore propensione a poter invece provare l'altra strada, che ripeto è una strada più complicata nell'immediato, ma secondo me più nobile, più giusta, sì, e che alla fine li rende anche agli occhi dei tifosi, di tutti i tifosi, maggiormente apprezzati, perché sì, se un calciatore viene e te lo fa quel discorso lì e te lo dice, che lui passa ogni giorno della sua vita fortunata, assolutamente fortunata, ma passa ogni minuto, ogni corsa, ogni goccia di sudore viene fatta per cercare di raggiungere dei risultati con quella che è la sua squadra. Ma che cosa gli vuoi dire? Che è un eccellente professionista, che cosa gli vuoi dire? Appunto, ma poi è anche un discorso di rispetto nei confronti dei tuoi tifosi attuali, perché ci sono quelli che hanno tifato per te, con cui puoi avere un rapporto più o meno buono, ma ci sono quelli attuali che, insomma, io capisco quelli che si arrabbiano quando il tuo giocatore segna, ti dà una gioia e sembra davvero che sia ad un funerale. Questa è una cosa fastidiosa. C'è un altro aspetto invece, restiamo ancora a Napoli, perché c'è un altro aspetto che nasce dalle parole di Boban. Penso che svuotino e poi dopo anche dimostrano magari di non aver obiettivo quello che dovrebbe essere, che è lo scudetto alla fin dei conti, perché non ha senso. Con l'Inter ci poteva scappare una, perché è stata una grandissima partita dove è stata definita, diciamo, l'era di un grande calcio, o almeno aperta l'era di un grande calcio che stavano facendo e che sta facendo e farà Sarri con Napoli. Però cioè, anche oggi mi sembra veramente esagerata. E qui Boban parlava del giro di campo che i giocatori del Napoli hanno ripetuto dopo averlo fatto nella gara con l'Inter, dopo la vittoria con il Torino. Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, dimmi prima come la pensi su Quagliarella, cioè tu l'avresti fischiato in caso di esultanza, primo. Secondo, guarda, questa storia dei giri di campo. Guarda, farò un discorso tecnico, tecnico. Un lungo commento, pronuncerò un lungo commento che è su tutto quello di cui avete parlato negli ultimi 5 minuti, che palle, ma non per voi, ma perché veramente io questo, essendo un tifoso di calcio, un appassionato di pallone, è un giornalista sportivo, davvero non lo capisco. Mi sembra un esercizio di grande stupidità dire che Quagliarella non doveva tirare rigore, poi virgola, Quagliarella che fa quel gesto dopo il rigore, poi virgola, Quagliarella che si scusa perché sembra che abbia chiesto scusa ai giocatori del Napoli, virgola, che i giocatori del Torino si arrabbino. Io trovo solo che un giocatore abbia il dovere, persino quando destro segna un rigore, non particolarmente difficile alla Roma, abbia il diritto e il dovere di fare quello che si fare dopo un gol. Se fa come Palotelli, che non esulta, se fa come Zazza, che non esulta, se fa come Quagliarella, che magari non se la sente di esultare, può fare quello che vuole. Non deve chiedere scusa prima, non deve chiedere scusa dopo, non deve chiedere scusa a nessuno. È una partita di pallone, sono dei professionisti e quindi mi sembra veramente che i tifosi del Napoli, i tifosi del Torino, Quagliarella, tutti non abbiano dimostrato molta intelligenza. Chiaramente giustifico un po' di più Quagliarella, e mi costa, devo dire, perché poi io sanamente verso gli ex che mi segnano come Quagliarella. Quindi a te, a parti invertite, non dà fastidio se un tuo giocatore fa gol con contro la sua ex squadra e chiede scusa, non esulta? Non... Mi dà fastidio. Ah no, però questo per chiarire. No, ma lui ha la libertà di farlo, mi dà fastidio, io ho la libertà di dire che mi dà fastidio, ma francamente non mi interessa. Credo che lui si privi di una gioia, nel senso, uno che non segna da 4 mesi, non ci credo che abbia come gesto istintivo quello, non gli credo, onestamente. E mi si priva di una gioia, la chiave è proprio questa. Che non ce la sia goduta, francamente. Poi io, da tifoso del Napoli, ho sperato fortemente che Quagliarella sbagliasse il rigore. Vabbè, questo è normale, questo è giusto, questo è normale, fa parte del gioco delle parti. Boban? Su Boban, francamente, torniamo allo stesso discorso. Quanto è bello poter esultare per una vittoria, perché Boban e Sky devono marcellare sul fatto che non si fa il giro di campo e se i giocatori non salutano la curva sono dei bambini viziati, e se lo fanno sono dei bambini viziati. Francamente non lo capisco. Hanno vinto, sono primi e sono secondi a un punto dalla prima, vogliono esultare, si sono entusiasmati, vogliono condividere questa cosa con i tifosi, hanno tutta la libertà. Non mi sembra che sia una dimostrazione di immaturità, non mi sembra che ci sia dietro chissà quale previsione. Anzi, il fatto che si faccia dopo il Torino e non solo dopo Juventus e Inter, mi sembra che sia semplicemente un bel rito di una squadra che ha un bel gruppo e che ha voglia di avere delle reazioni che non sono irreggimentate dal presunto Poi tra l'altro il gruppo è guidato sotto la curva da uno dei leader di questo Napoli, cioè Reina, che invita i compagni a rendere omaggio ad entrambe le curve, non solo a curva B, quella storicamente degli ultranapoletani, ma anche all'altra. Ne parlavamo anche un po' ieri. Io penso che, vabbè, Boban ha detto una cosa dal suo punto di vista di calciatore, di ex calciatore, che devo dire non è mai banale, ha detto una cosa secondo me alla luce della sua esperienza, no? Comunque lui ha fatto parte di tanti spogliatoi che sono anche stati spogliatoi vincenti, e probabilmente a lui quell'immagine lì di quell'entusiasmo così gli fa pensare che ci possa essere un effetto, un rovescio della medaglia, no? Un eccesso di entusiasmo. Il calciatore, no, ti dice sempre la classica frase fatta: la partita più importante è sempre la prossima, no? Quindi secondo me vede in quello un segnale, un indizio, un sintomo di una squadra che potrebbe rilassarsi e lasciarsi andare in preda all'entusiasmo. Dal punto di vista ambientale, io l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, mi viene in mente una delle mie primissime fidanzate tipo 20 anni fa, che è viva, la salutiamo, Claudia, che è austro-sarda di origine, e lei era una che diceva sempre che non voleva mai, quando c'era, che ne so, un bel progetto, una cosa da fare, una speranza davanti, lei dice no, però meglio non farci la bocca a questa cosa, perché se mi faccio la bocca e poi non succede, rosico, no? Mi dispiace doppiamente. E io ero del parere esattamente contrario, cioè se io ho comunque questa, a parte che non riuscivo a eventualmente ad autocalmarmi, se avevo una grande cosa davanti a me che mi piaceva, questa gioia intanto me la vivevo, poi se non si fosse organizzata secondo me c'è una serie di gioie parziali. No, ma io sono d'accordo su la felicità gioia, che c'era domenica sera fuori dallo stadio era normale, genuino, naturale, cioè, il problema è come vivi gli altri 6 giorni, cioè quelli che ti separano, o 3 giorni, quelli che ti separano dalla partita successiva. Cioè, se quell'eccesso di entusiasmo si traduce, si riflette nella vita di calcistica di tutti i giorni, credo sia questo il senso del discorso. Sì, Boris, posso dire una cosa? Ma lo fai dopo il traffico, così almeno abbiamo spazio? Perché sono le 14:45, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Eravamo in sospeso con una cosa che Boris Sollazzo voleva aggiungere, poi andiamo da Giuseppe da Napoli e da Giovanni, provincia di Napoli. 800 24 00 24, dimmi Boris. No, dicevo, la cosa che mi colge è che è come se si chiedesse a Fabio Auro, prima di vincere la Vuelta, di non festeggiare la vittoria di tappa. Mi sembra assolutamente normale che una squadra, un gruppo così unito, che gioca per la maggior parte da un bel po' di tempo insieme, voglia festeggiare col proprio pubblico una vittoria. E ripeto, e questo è fondamentale, se non lo fa solo dopo le vittorie con l'Inter, la Juventus e la Fiorentina, ma lo fa anche dopo la vittoria col Torino, vuol dire che è semplicemente un'esplosione di gioia giusta. E se si va a vedere l'entusiasmo di Higuaín e di Reina, che non possono essere definiti degli inesperti, gente che si lascia andare a eccessi di entusiasmo, sono quelli che festeggiano di più. Semplicemente si è creato un bel rapporto, un bel feeling tra il proprio tifo e la squadra, e che è quello che dovremmo sperare tutti e sempre in questo calcio, non quello che magari vediamo con la Roma e la Lazio per motivi diversi. Ma sono d'accordo con te, Boris, sono d'accordo con te, cioè, ripeto, bellissima quell'esultanza, va benissimo, quello che vuoi, l'importante è poi come vivi gli altri giorni, gli altri 6 giorni della settimana. Io penso che sia un bel indizio per i tifosi del Napoli, cioè vedere Reina così, che fa il capopopolo, comunque giocatore con la sua esperienza, vedere Higuaín, vedere Hamsik, cioè vedere i leader di questa squadra, e gente che comunque ha esperienza, ha talento, è stata anche in dei club importantissimi nel mondo, abbracciare così tanto il progetto, secondo me è una garanzia assoluta. Fra l'altro non si può sottovalutare l'effetto, la benzina positiva, l'entusiasmo che un ambiente come quello di Napoli ti può dare se viene coinvolto, cioè questo è fondamentale, ma questo vale per Roma, per Napoli, per Firenze, cioè sono città dove il rapporto col calcio è talmente totalizzante. Esatto, non è Boban probabilmente la guarda da un altro palcoscenico, cioè quello del Milan piglia tutto, che aveva un'altra disciplina, un altro tipo di rapporto anche con la sua gente. Ma poi faccio notare una cosa: a Napoli-Torino, gli ultimi 10 minuti, il Napoli non ne ha più A quel punto si alza il coro, quello che ha cantato anche Higuain dopo alcune vittorie, compresa quella con l'Inter, e sostanzialmente la squadra riesce ad arrivare fino al 95esimo senza prendere gol. In quel momento, come è successo in Napoli-Manchester City, ma anche, io ricordo, in Napoli-Vispesaro con il gol di Varricchio, francamente il pubblico ha avuto un ruolo fondamentale, e quello è il modo dei giocatori per andarli a ringraziare. Allora poi non vedo veramente perché, se vogliamo coinvolgere i tifosi, se ci lamentiamo del fatto che gli stati si svuotano, poi non debba esserci tutto questo. Però, scusa, mi ha fatto divertito Boris, quelle due partite le ho fatte tutte e due io a livello di telecronaca. Anche Napoli vi spesano? Sì, sì, perché era gol di Varricchio? Sì, era la terza giornata. Io ero allo stadio in entrambe. Credo fosse la terza giornata del campionato della Serie C, forse la prima giornata al San Paolo, ed era tra l'altro la prima volta che c'era già Sky, sì, c'era già Sky che faceva la Serie C, no? Perché aveva appena fatto il contratto, per cui c'era un clima di festa assoluto, non perché c'era la televisione, ma in assoluto erano le primissime partite, no? Dal Napoli spento, sbiadito della Serie B, che navigava senza un perché, con Rinaldi, si era passati a un progetto che partiva da una serie sotto, ma che aveva invece tutto l'entusiasmo. Quindi queste due partite così diverse, in realtà è vero, hanno in comune qualcosa, e secondo me questo è, in certi ambienti diventa un alleato. Poi sta Sarri, certo, la leggenda racconta, fare indossare l'impermeabile al Napoli. Esatto, la leggenda racconta che dopo una partita di Europa League vinta in casa, non mi ricordo contro chi, probabilmente contro i danesi, tre giorni dopo c'era l'Udinese, Sarri arriva nello spogliatoio, urla Udinese e richiude la porta. Cioè, voglio dire, poi qui c'è la capacità di un allenatore e di un gruppo, oltretutto di grandi giocatori, di capire che si festeggia fino alle 23:18, certo, ma il poi giorno basta. Dopo si torna a combattere per la partita successiva. Questo è evidente. Giuseppe Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Non volevo dire su Quagliarella e su Boban, praticamente. Prego. È argomento vostro. Per quanto riguarda Quagliarella, io penso che lui, per il fatto che sia napoletano, più che abbia giocato a Napoli, si è creato questo rapporto, questo malinteso. Però io credo che un giocatore possa permettersi di non esultare se in una piazza c'è stato per 10 anni, per 12 anni, sia stata una bandiera di quella piazza. Ma qua si vede giocatori che passano da gennaio a giugno in una squadra e da settembre gli fanno gol e non esultano. Cioè, sembrano quasi, praticamente, voglio dire, ne hanno preso in giro. Sì. Io da tifoso mi sentirei preso in giro in questo senso, da ambo le parti. Sì. E quindi d'accordo. Forse il caso di Quagliarella è un po' particolare, anche perché lui è di Napoli, quindi vive in modo particolare anche quando viene qua con la famiglia, e vive qua con la famiglia. No, ma certo, a lui sta sulle palle essere considerato un traditore che ha voluto lasciare il Napoli per andare alla Juve. Lui ha lasciato il Napoli, alla fine ha dato l'ok anche lui, e come si fa a non accettare professionalmente un'offerta come quella? Ma ha lasciato il Napoli perché c'erano dei dissapori, perché non c'era spazio e perché la società, Boris, correggimi se sbaglio, ha incassato credo 16 milioni legittimamente, quindi c'è stata una confluenza di interessi, non è che ha fatto di tutto per lasciare Napoli. Siccome questa cosa non è stata mai chiarita fino in fondo, invece è passata la cosa del traditore che abbandona la causa, questo secondo me gli fa male, e gli fa ancora più male perché la causa in questione non è soltanto una squadra, ma è la sua squadra, quella per la quale ti fava da bambino. Quindi questo secondo me spiega il cortocircuito che poi si è portato dietro l'esultanza dell'altro giorno e adesso di converso le polemiche con alcuni tifosi del Torino. Ma io dico la verità, Quagliarella va valutato per quello che fa in campo. Quagliarella è una bandiera del Torino, perché ha vissuto 3 esperienze, sicuro, è legatissimo lì, a questa squadra, ha fatto una marea di gol, francamente, insomma, non mi sembra gli si possa rimproverare niente da parte dei tifosi granata. Giovanni, provincia di Napoli. Aspetta un attimo, Boris. Giovanni, provincia di Napoli. Devo dire che io ero... Pronto? Sento il bombo. Come? Pronto? Dica. Pronto? Pronto? Presidente? Sì. Dica. Alla Cruciani, pronto. Dica. Allora, volevo dire che ero d'accordo con te in merito al fatto di Quagliarella. E volevo aggiungere che a volte si rendono ancora un po' più ridicoli quando segna un compagno e esultano quando la squadra è X squadra. E volevo dire, se sono così attaccati alla maglia, ma perché non si mettono almeno 500 euro al mese e rimangono nella squadra del cuore? Così un tifoso che fa 1000 chilometri deve Quagliarella che non esulta, è una cosa assurda. Secondo me. Fabio, provincia di Piacenza anche, poi chiudiamo il discorso con Pierluigi e con Boris. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la telefonata. Sono un tifoso milanista deluso e amareggiato. E vedo in questi giorni, visto il momento sui social, tra gli amici, chi se la prende con Galliani e difende Mihajlovic, chi difende Mihajlovic invece difende Galliani, chi dà la colpa ai giocatori, chi dà la colpa al presidente. Io credo che le colpe sì, vadano equidivise, nel senso che tutti hanno le proprie responsabilità, a partire dalla dirigenza, che al di là dell'ultimo mercato estivo negli ultimi 4-5 anni credo abbia fatto male, che le colpe ci sono anche da parte dell'allenatore, perché in partite come Verona, Carpi, Atalanta, dove si è pareggiato ma non si meritava in nessun modo di vincere, quindi si vede chiaramente che la squadra manca di un gioco, di un'identità. Ce l'hanno i giocatori, perché probabilmente molti non sono da Milan, però prendersela anche col singolo, vedi Montolivo, vedi Cerci, non credo che sia la cosa giusta da fare. Ecco, volevo una vostra opinione al riguardo. C'è una grande caccia al colpevole, o al capro espiatorio, se vogliamo, in questo momento al Milan. Intanto ha parlato Garcia, ha parlato anche Mihajlovic dopo Garcia, dicendo: non siamo senza identità e sono abituato a essere in discussione. La mia sfida con Garcia è come quella tra due pistoleri. Questo ha detto Sinisa Mihajlovic. Vediamo con Pierluigi Pardo e Boris Sollazzo. Da dove volete partire? Da questo discorso sul Milan o da chi può cambiare, come si diceva prima con Roberto Gravero, faccia sul mercato e magari spaccare quell'elastico? Pierluigi. Di chi vogliamo parlare? Scusa, stavo vedendo il tweet su Quagliarella, che è un po' diverso da quello che ho detto. No, i motivi economici, c'è stata una congiunzione di interessi, no? Siccome è uscito il tweet adesso di tutti i convocati. No, su Roma Milan è la partita secondo me della disperazione da una parte e dall'altra. È una partita di due allenatori in qualche modo delegittimati al loro interno, due allenatori che sono ancora, questo va detto, in grado di poterla raddrizzare, perché poi alla fine la Roma non è così distante, però la Roma era due mesi e mezzo fa, insomma, a fine ottobre, inizio novembre era in testa alla classifica, adesso è scivolata in una condizione molto, molto complessa. Per quanto riguarda il Milan, considerando che l'obiettivo del Milan non è certamente lo scudetto, ma è semmai la Champions League, che a questo punto sembra miracolosa, non è una cosa completamente impossibile. Però serve un grande segnale. Il Milan è stata una squadra umorale, assolutamente umorale quest'anno, sono d'accordo, Cerci non può diventare il capro espiatorio, però è pure vero che in una stagione come questa, se hai poche occasioni e le fallisci, poi tutti si ricorderanno di quelle poche occasioni che hai fallito. E per quanto riguarda Garcia, io credo che sicuramente non sia facile, perché di fondo io penso che a Roma, quando un allenatore perde legittimamente oppure no, con delle colpe sue o anche delle colpe che vengono da fuori, ma perde un certo tipo di presa e un certo tipo di carisma nei confronti dell'ambiente, è molto difficile recuperarlo. Certo. Roma si è letteralmente bagnata Luis Enrique, era un altro Luis Enrique ovviamente, con un'altra squadra a inizio carriera, Ranieri, lo stesso Spalletti alla fine è stato mandato via, perché quando perdi il filo non riesci molto, più a ricostruirlo. A Roma è difficilissimo riannodarlo. Capello comunque, anche nelle rate difficili, quel carisma lì ce l'aveva. Sì. Lidl è stato un allenatore estremamente carismatico, e poi erano altri tempi, anche dal punto di vista mediatico, certamente più semplici. E poi la mia sensazione è questa, che Garcia, tutti gli altri già l'hanno fatta. Che Garcia, che non ha fatto male secondo me in assoluto, anzi, due secondi posti nella storia della Roma sono un ottimo risultato, sicuramente migliorativi rispetto il filo si sia spezzato, questo è il senso del discorso. Pier, ti ringrazio, ciao, ci vediamo domenica. Ciao, ci vediamo domenica. Boris? Ciao. Boris? Sì, eccomi. In 30 secondi mi dici chi vorresti per il Napoli sul mercato? È dura, perché io ho più paura di rompere il giocattolo che di avere dei giocatori. Ti sorprenderò dicendo che più di Maximovic io vorrei alla metà del prezzo Ranocchia, perché in questo momento secondo me Sarri ha la bacchetta magica e potrebbe farlo ritornare alla grande. E poi ammetto che, come tutti i napoletani, mi sono innamorato di André Gomes, che però con l'infortunio muscolare di oggi dimostra di non essere proprio integro da un anno a questa parte, quindi vorrei che stessero molto attenti a non rovinare tutto. Sulla Roma dico solo una battuta: sì. A Roma si cantava Ottavio Bianchi pelato, la Roma ci hai rovinato. Ecco, Ottavio Bianchi vince una Coppa Italia e arriva in finale di Coppa UEFA. Questo dovrebbe farci molto riflettere sull'ambiente giallorosso. Grazie Boris, alla prossima. A presto. Ti abbraccio, Boris Sollazzo. Ciao. Allora, ci fermiamo per il giornale radio, torniamo subito dopo, 800 24 00 24, siete sempre tutti convocati. Ciao Parto, ti voglio bene. tutti convocati. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con te, Alessandro, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Do qualche parola in più di Mihajlovic che ha appena parlato. Dobbiamo rialzarci subito, niente paura. Sicuramente l'atmosfera non aiuta, i ragazzi si sentono un po' meno tranquilli. Ma sappiamo che nel Milan le pressioni sono all'ordine del giorno. Dobbiamo reagire, fare le cose con serenità. L'importante è cercare di sfruttare le occasioni. Non penso che le qualità non ci siano, ci gira un po' male, ma non dobbiamo appellarci alla fortuna, alla sfiga e a queste cose qua, dice Mihajlovic. Mister Emiliano Mondonico, che piacere. Ciao Emiliano. Piacere tutto mio, sentitevi ancora pimpanti con nonostante un anno sia passato. Nonostante un anno sia passato. Come sono andate le feste? Le feste sono andate... No, normali, ormai è festa tutto l'anno. Dai, una volta era bello perché a Natale mangiavi il salame, quello proprio che era rimasto lì a svernare, poi dopo mangiavi il tacchino. Uh-huh. Adesso li mangi tutti i giorni. Dai, ma che balle, cavoli. Non cioè, ti han tirato via anche alla festa dell'ultimo dell'anno. Sì, l'ultimo dell'anno è tutto l'anno, e perciò che gusto c'è. Non c'è più poesia, caro no mondo. Non c'è più, cioè no. Non c'è più desiderio. Una volta desideravi, arrivo all'ultimo, stasera mi faccio una magnata proprio. Sì. E poi dopo sai che chi lo fa al primo dell'anno lo fa tutto l'anno. Adesso invece non lo fai per tutto l'anno, che cavolo te ne frega per il primo dell'anno. Bravissimo. Tanto la seconda metà, gli ultimi tre mesi del 2015 sono magnati Mourinho e Benitez. Aspettiamo al varco Garcia e Mihajlovic, magari uno dei due domani sera salta, e sappiamo che il tiro all'allenatore è sempre sport molto praticato, anche nel 2016. È stato un bel pranzo, no? Quello di Benitez e di Mourinho. È come se uno va a fare il veglione di Capodanno con 1000 persone e non solo pagano gli altri, alla fine ti danno anche dei soldi. Sai che bello che è? Cioè, sarebbe simpaticissimo, ecco perché penso che Mourinho e Benitez siano stati contenti lo stesso, perché hanno portato tutti gli ospiti, alla fine invece di pagare gli hanno dato anche dei soldi. E parecchi. Dai, magari fosse sempre così. E neanche pochi, ma per Mourinho, vabbè, era una storia consumata. Benitez invece è stata una discreta figuraccia, nonostante i 10 milioni che comunque ha messo in tasca prima di salutare tutti. E Benitez già, dai, già questa immagine dell'uomo quieto, proprio adesso non diciamo sfigato, perché cioè, le offese non vanno bene, però sicuramente non è un uomo che ti incute allegria, che ti incute simpatia. Diciamo che è un professionista ligio, proprio che segue le sue direttive, e perciò penso che lui, il fatto che vinca il primo o arrivi ultimo, come immagine sempre sì, uguale, non cambia nulla. Senti, Garcia o Mihajlovic, chi salta per primo? O magari tutti e due insieme? Chi salta per primo? No, dai, cioè, sono allenatori, ti dico, io ho fatto allenatore anch'io. Sai, saltare, quando salti ti girano le balle, perché dopo vabbè, ti possono anche pagare quando ti pagano. Però dai, il fatto di essere esonerato è un po' un fatto di fallimento quando non ci sono altre concause, perciò non possiamo, dai, parlare dell'esonero. Domenica c'è Milan-Roma, cioè Roma-Milan. Sai che io ho fatto una proposta sul Milan. Secondo me il Milan, come come tirarlo fuori da questo, da questa apatia, perché è chiaro che è un'apatia, sì, perché domenica hanno avuto 6 palle in gol e questi qui davanti al portiere se la sono fatta sotto, perciò vuol dire che la paura ha il dominio su tutto. Io, parlando con dei tuoi colleghi, ho detto che secondo me in questo momento la soluzione di questa storia è Balotelli. Sì. Tu metti in campo Balotelli, dopo tutte le colpe sono di Balotelli. Certo, certo. Tutti i meriti sono di Balotelli. Se, non c'è più la caccia a colpe, altro che Cerci, altro che Alex, no, altro che gli altri 10 possono giocare tranquilli, non hanno il peso che hanno in questo momento che non c'è Balotelli. Quando mi dicono qual è l'acquisto migliore del Milan, Balotelli tutta la perché vita. In questo momento si porta dietro tutti gli altri, ma non in maniera così ironica, ma proprio perché in questo momento sembra che, non essendoci un leader, sembra che tutti giocano per conto suo, se la fanno sotto, cioè ormai non vedi più un 1-2 al limite dell'area e diciamo che questi ragazzi magari non saranno fenomeni, però sono ragazzi di grandissima, cioè con grandi qualità, sì. Non riescono a metterli in mostra, non riescono a emergere. Perché è chiaro. Perché hanno paura in questo momento. Hanno pressione paura, no? E quindi dentro Balotelli subito. Che si prende tutto quanto. Tanto cosa gliene frega lui gioca male quando nessuno gli dice niente. È chiaro. Ma quando tutti gli dicono... Oh! Allora lui fa la partita. Sì. Quando tutti gli dicono bravo, lui fa la partita... Quando più nessuno parla di lui, la becca mai. Bravo. E perciò, quindi, lui è ormai è impermeabile. Lui gli possono tirare addosso tutta la spazzatura. Ma non è impermeabile. Lui se ne va proprio a cercare. È il suo stagno, quello lì. Ecco, la sua forza è che se le va a cercare. Cioè, lui dice, oggi non mi ha detto niente nessuno. Allora, ma come la mettiamo? No? Allora, Raiola, vai a parlare ai giornali e digli che posso andare alla Rivoltana e di modo che, eccolo, e loro tutti parlano di Balotelli che può andare di qui e di là, certo, ma certo. Invece quando c'è l'articolo su Balotelli lui ci sguazza. Ecco, perché è chiaro che lui ha bisogno di queste sensazioni, da solo contro tutti. E io dentro da solo contro tutti, perché tutti gli altri 10 chiaramente giocheranno al loro livello, certo. E secondo me vedremo un Milan diverso. Quindi la soluzione è una cagata, ma la penso così anch'io, sai, mondo. Dimmi un'ultima cosa, la più bella della settimana però è quella che è arrivata da Palermo, con il balletto Ballardini via, Iachini, sì, mister, torno, presidente, Zamparini, torno, va bene, ma mi compra dei giocatori italiani perché voglio salvarmi. No, aspetta, il mercato lo decido io, allora stai dove sei. Ballardini, sei riconvocato, sei richiamato. Ma tu cosa avresti fatto al posto di Ballardini? Ma no, cioè, dopo con chi hai a che fare? È chiaro che quando hai a che fare con questi presidenti che cambiano idea, non da un momento all'altro, da un secondo all'altro, cioè un secondo prima di esprimere un'idea la cambiano, allora è chiaro che bisogna convivere con queste situazioni. Uno sa che Zamparini, pur nella sua logica, pur nella sua... Accidenti, che ha scattato la linea con Emiliano Mondonico, che comunque ringraziamo. Gianluca Napoli, buongiorno. Gianluca? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ecco. Allora, per quanto riguarda il caso Quagliarella, sì. A me dispiace che viene trattato così, in verità, perché credo che sia un calciatore attaccato alla maglia del Napoli. Solo che giocato nel Napoli in un periodo che forse c'era meno esperienza nel saper gestire una grande squadra. Quindi? E quindi penso che oggi anche il portiere, che ci mancherebbe, oggi è un ruolo particolare, basta capire bene come fare il portiere oggi nel 2016, è un po' diverso rispetto a 15 anni fa, 20 anni fa, possibile. Sì, viene super esaltato, questo, un grande eroe, però questo, l'anno scorso mi pare che non giocava nel Napoli, è andato via. Poi no, Reina è un grande portiere e un grande leader, ma stavamo parlando di Quagliarella, lei diceva mi dispiace vederlo trattato così, no, in realtà non è trattato in nessuna maniera, in realtà... Si è reso protagonista di questo episodio che è stato molto scivoloso, diciamo così, è stato molto scivoloso per tutte e due le parti, perché i tifosi del Napoli comunque non penso cambieranno atteggiamento nei suoi confronti, i tifosi del Torino se la sono giustamente presa perché è giusto così, è un giocatore del Torino. Claudio Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono un milanista distrutto. Distrutto addirittura. Ricordo quando... Beh, distrutto, sì. Statisticamente distrutto. Sì. Io mi ricordo quando andavo tempo fa, arrivava la partita, volevo andare a San Siro, non vedevo l'ora di andare a San Siro. Adesso non mi interessa più. Sono un abbonato. Non mi interessa più andare a San Siro, che è drammatico, sempre calcisticamente parlando. È da qualche anno che è così, comunque Claudio, non è la prima stagione che vive in questo stato di profonda prostrazione, no? Mi state dicendo che potevo anche pensarci prima, questo è vero, sì, non ci sono dubbi, però si spera sempre che sia migliore, no? Se lo si sapesse prima non si farebbe l'abbonamento. Purtroppo non si sa, lo si fa sempre, e 3 anni che è sempre la stessa cosa. Ma lei si è esercitato nella caccia al colpevole come fanno tutti i tifosi milanisti? Oppure ha ragione Mondonico quando dice in campo subito Balotelli, tanto le colpe se le prende tutte lui? Ma no, a proposito di Balotelli e Menez, per esempio, hanno sbandierato ai 4:20 che erano pronti subito, praticamente dovevano giocare già contro il Carpi. Non sono neanche stati convocati per Roma, se ricordo bene. Dunque, che fine hanno fatto? Anche questa è la confusione societaria che c'è, no? Sbandierano i 4:20 una cosa, poi per 3 giornate non si sente più parlare né di Menez né di Balotelli. Penso che Menez non rientri neanche mai più a questo punto, forse Balotelli. Questo non lo so, certamente la gestione degli infortuni del Milan già da qualche stagione è piuttosto complicata. Balotelli sappiamo i problemi che ha avuto, Menez fuori dall'inizio della stagione per problemi alla schiena. Io credo però che sinceramente né l'uno né l'altro possano essere in grado di risolvere i problemi di questo Milan. Ma magari effettivamente, seriamente dal punto di vista emotivo, un Balotelli in campo potrebbe dare una scossa o quantomeno essere un agevole, facile parapulmine per le colpe dei compagni. Beccati in centro a Milano Lotito, Ferrera e De Laurentiis, mi scrivono dalla regia. Vertice di mercato, chi lo sa, dopo ci informiamo. Fedele, provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno, io sono milanista da una vita, ero tifoso di Gianni Rivera, poi è arrivato Berlusconi, abbiamo vinto, siamo stati tutti contenti. Il problema è questo, essenziale, se la prendono con tutti gli allenatori, il problema è societario, perché Berlusconi ha strumentalizzato, lo ringraziamo per tutte le vittorie, il Milan politicamente per anni, coadiuvato dal suo fido gendarme, che sappiamo chi è, no? Il signor Adriano Gagliani, e dopodiché questa squadra è stata strumentalizzata politicamente, lo sarà ancora finché Berlusconi sarà alla guida del Milan. Ora dovranno prendere una decisione, quella di fare calcio nella maniera seria, perché il Milan è diventato qualcosa di comico. Io ricordo che da milanista ridevo per l'Inter che gli facevano le barzellette. Noi siamo al di là dell'Inter iniziale di Moratti, ma siamo veramente al di là, e questa gente non si rende conto. Cosa vuol dire fare, però mi perdoni, sto ascoltando attentamente le sue parole, cosa vuol dire fare calcio in maniera seria? Al di là del fare fatto calcio serio significa non andare a prendere Baccarat Traoré, Taibo, non andare a prendere questa gentaglia, non andare a prendere Montolivo e dargli la fascia di capitano. La fascia di capitano nel Milan è una cosa seria, tu non la puoi dare a Montolivo, che è un giocatore probabilmente di provincia e nulla di più. Non puoi dare, non puoi acquistare Montolivo perché è un ottimo giocatore, ma non gli puoi dare la fascia del capitano del Milan. Tu non puoi andare a prendere Ondà e dargli la numero 10 che è una maglia storica del Milan. Questa è gente, mi senta, che fa semplicemente teatro. Quando è venuto Ondà al Milan hanno fatto tanto di quel baccano mediatico che non lo si fa nemmeno per, che so io, per un viaggio di Obama in Italia o per un viaggio di papà giocatore, quello non so, però giocatore molto mediatico Ondà, che viene da un paese che segue con attenzione, ma non è un giocatore da numero 10 da Milan. Questo è il problema. Allora sì, è inutile che se la prendono con gli allenatori. Hanno bruciato delle leggende tipo Leonardo, che ha fatto un campionato eccezionale, è arrivato terzo, lo hanno bruciato. Qui lo ha bruciato Berlusconi e lo ha coperto Galliani, anche se Galliani aveva un grande rapporto con Leonardo. Poi hanno bruciato Inzaghi perché aveva un grande rapporto con Galliani e ce l'aveva contemporaneamente con Berlusconi. Poi hanno bruciato Seedorf, che ha fatto un grandissimo girone di ritorno, che aveva un grandissimo rapporto con Berlusconi, ma Galliani, che dicono che non decide niente, che tutto deve avvallare Berlusconi, questo non è vero, perché Galliani ha un grande potere nella società, sì, e riesce a convincere Berlusconi su tante cose, e negli ultimi anni lo ha convinto su tante cose, inducendo Berlusconi a fare dei grandi errori, tanto quello quindi, e quindi torniamo a Fedele, la sua rabbia sportiva è evidente, la sua lettura è chiara. Torniamo al discorso di fondo. Secondo me in questo momento il principale e su questo siamo d'accordo, il principale dei problemi del Milan è la confusione che c'è al vertice, perché l'ho detto ieri, lo ripeto oggi perché l'immagine ovviamente non è cambiata e non cambierà nemmeno domani in caso di vittoria a Roma all'Olimpico. Il Milan mi sembra un vascello fantasma, cioè una nave senza un capitano a condurla. Claudio Raimondi da Mediaset, buongiorno. Buongiorno, come stai? Ascoltando tutta la rabbia passione dei tifosi rossoneri. Come la leggi la situazione tu? La dico che forse si può riprendere la strada, nel senso che c'è tempo, sbagliare si può, credo che magari siano stati commessi degli errori, io credo che se Milan abbia ancora qualche chance per raddrizzare la stagione, a patto che non la sbagli, quindi ci sono dei giocatori da accasare, Uso, Cerci non essere convocato e quindi ormai è un passo, penso, dal Genoa. Non credo sia una spontanea scelta, ma non c'è altra strada e la società gliel'ha fatto capire anche attraverso la non convocazione. Quindi molti altri dovranno finanziare questo nuovo progetto di rilancio come Sharawi. Conta molto, so, almeno incassare 12 di 14 milioni sperati. Poi sono giocatori che piacciono all'estero, come Diego Lopez, come Ondà, lo stesso De Jong, che è chiuso ormai dal centrocampo Bertolacci Montolivo, insomma, si cercherà di creare un tesoretto per poi operare. La solita filastrocca, prima bisogna vendere per acquistare, è così strutturato. Insomma, il Milan non piazzerà nessun colpo, ma saranno colpi a centrocampo e qualitativi. Io credo che alla fine ci stupirà con un paio di colpi. Almeno in questo mercato invernale, dici? Sì, assolutamente. Perché la carenza qualitativa mezzo al campo è evidente, quantitativo è evidente, può, ma anche di personalità, cioè, che a me che stupisce che nel Milan non ci sia nemmeno un giocatore in grado di prendere in mano la squadra quando, ma emotivamente, quando le cose assolutamente girano male. Manca il leader, manca Gattuso, certo, ma mancano i tanti leader che il Milan, quando era una cosa diversa, aveva. Questa mi sembra sul campo la pecca più evidente. Poi continuo a pensare comunque che il vertice della montagna sia in piena bufera, sia in piena confusione, e questo conta molto, perché è chiaro che questo si riflette poi sul campo, si riflette sul lavoro degli allenatori, eccetera eccetera. Senti, vi avvistati a Milano, mi dicevano prima, Lotito, De Laurentiis e Ferrero, che ci fanno? Di che parlano? Sono solo fuori pranzo? Sì, ci sono conferme. Beh, ci sono dei giocatori molto caldi, diciamo che Soriano possiamo dire che potrebbe esserci novità importanti già nelle prossime ore. Addirittura ti aggiungo che potrebbe essere stato, mi dicono che è stato avvistato lo stesso giocatore, ma non ho ancora avuto modo di lavorare sulla cosa, quindi prendiamola così. Certo è un nome caldo, è un nome che potrebbe andare al Napoli. Io dico che potremmo esserci ormai, perché Napoli ha ricevuto una porta in faccia per quello che riguarda il centrocampista del Valencia, Gomes, che era molto, era il primo della lista, ma a prezzi proibitivi, poi la società precedente richiede il 20%, quindi carissimo. Io credo che abbiamo fatto una virata pesante, l'incontro è iniziato, credo che possano esserci novità importanti già in serata, tra la possibilità di vedere Soriano in azzurro, che era sfumato all'ultimo minuto, no, al mercato, sì, estivo, mercato ricorderete estivo, certamente. D'altra parte, guarda Claudio, l'altro giorno è stato ai nostri microfoni Ferrero, due giorni fa, e ha detto c'è una clausola rescissoria, prima non l'ho volutamente ignorato, lo volevo trattenere, adesso se il giocatore vuole andare via e mi pagano quanto previsto, Soriano, ecco io ti posso dire che andarsene. Secondo me, essendo un incontro, non escluderei, questa potrebbe essere una novità interessante, se ne è stato sfiorato, che possa esserci anche allo studio uno scambio, magari Gabbiadini che potrebbe tornare a vestire la maglia della Sampdoria. Dico questo perché Eder è a un passo allo stesso modo dall'Inter, quindi la Sampdoria avrebbe bisogno di un attaccante in grado di non fare mancare tanto Eder, che insomma, ne ha fatti tantissimi, e quindi io credo che possa essere un giro di questo genere. Stiamo a vedere, ma l'ipotesi di un ritorno a Genova della Samp di Gabbiadini io credo che prende quota. Sì, d'altra parte Gabbiadini ha fatto sapere più volte, lui e il suo procuratore ha fatto sapere più volte, che questa situazione di continua panchina certamente non lo può soddisfare nemmeno in una squadra vincente in questo momento come il Napoli. Mi hanno incuriosito molto invece le parole di Sarri pronunciate l'altro giorno a proposito del mercato in generale, sentiamolo. Il mercato a me non piace, lo ritengo anche antisportivo, perché giocare mentre c'è il mercato aperto vuol dire che se una squadra cambia 25 giocatori è una squadra completamente nuova, e ci saranno delle squadre che ci giocano contro due volte e delle squadre che ci giocano contro una volta sola, e non è neanche completamente sportivo. Quindi io è un periodo, e se potessi lo farei durare 3 giorni, tanto in 3 giorni farebbero le stesse cose che fanno in 30, perché poi il 90% lo fanno le ultime 6 ore, quindi lo farebbero le ultime 6 ore dei 3 giorni. Quindi non mi piace, una sofferenza, ma se deve esserci che duri 3 giorni e nelle ultime 6 ore si fanno gli affari, Claudio Raimondi, che lettura, Ma un po' cinico e un po' anacronistico, se vogliamo, anche perché io poi, che vivo purtroppo in questo circo, in questo mese non vado a fare la spesa, tanto per farti capire quanto è la pressione anche su di noi, la spesa e la voglia, piace, il mercato piace, e se deve fare una ragione Sarri, perché abbiamo indici d'ascolti elevatissimi in questi giorni, perché forse proprio, per esempio, tifosi delusi come quelli della Roma, della Lazio, del Milan, insomma, guardano al mercato come l'unica cervella di salvataggio. Sì, sì. E d'altra parte si notava come con un vertice soprattutto della classifica di questo tipo, cioè con 4 squadre, io non ci metto la Roma legata a braccetto, può venir voglia appunto a quelle prime 4 squadre di buttare qualche fish sul tavolo verde del mercato. Può venirti fame, no? Quest'anno sì, l'ho detto la prima puntata della nostra trasmissione settimana questa, non è un mercato di riparazioni, di solito lo è, quest'anno no. Io mi aspetto dalla prossima, ma già l'incontro che c'è in queste ore di presidenti sono mossi in prime persone, fa capire che qui c'è in gioco uno scudetto che di solito è cosa per pochi. Napoli, Fiorentina ci credono e state certi che faranno delle mosse importanti perché vogliono raggiungere questo obiettivo. L'Inter, da quello che so, non aveva a livello societario intenzione di fare investimenti, ma se faranno delle mosse Napoli e Fiorentina, e perché no, magari un ritocco la Juve, l'Inter è costretto, appunto, ecco il discorso Eder, a potenziare nuovamente, sebbene sia stata la società che ha speso, una delle società che ha speso di più quest'estate, ma non può stare a guardare. Chiaro. Napoli farà un grosso passo in avanti e credo la Fiorentina, dopo il gran lavoro di Paolo Sosa, regalerà al portoghese almeno un paio della famiglia del Valle di alternative validissime, perché poi non si scherza, c'è l'Europa League e è un obiettivo dichiarato anche quello. Sicuro. Grazie Claudio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Claudio Raimondi. Chiudiamo con Sergio da Terni. Buongiorno Sergio. Buongiorno, senta, io parlo prima di tutto da tifoso, io dico che, voglio ritornare sul discorso di Quagliarella che non ha festeggiato, io sono tifoso del Torino, accanito tifoso del Torino, e vorrei vedere veramente un Torino che gioca e che si diverte giocando, quindi io dico veramente fuori dai denti che qualsiasi giocatore di qualsiasi squadra abbia avuto come nel suo passato, deve festeggiare, perché il calcio è un gioco. è un gioco, e chi non si diverte a giocare a calcio non è un professionista, secondo me. A parte che lo ritengo una mancanza di rispetto per i tifosi del Torino, non festeggiare, ma anche una squadra ex come il Napoli, vedere Quagliarella che festeggia, secondo me non c'è niente di male. È un giocatore, fa il suo lavoro, si esulta. Poi ovviamente nelle dichiarazioni a fine partita può dire che quel gol su rigore non è il gol della sua vita, perché ama la squadra del Napoli, benissimo, ci sta tutto. Ma perché non festeggiare? Io vorrei. Questo discorso, che è banale se vogliamo, lo ricollego a un discorso tecnico. Il Torino si è perso completamente. Con Ventura il Torino si è perso, non ma sta non, più giocando. Non credo sia Ventura, non credo sia per Ventura. Non, guardi, io le sto dicendo la mia opinione, sì. Poi lei mi può anche dire che non è vero, ma io ho visto all'inizio del campionato del Torino, bellissimo. Questo Torino ha dei grandissimi giocatori, secondo me. La più grande selezione che il Torino abbia avuto da 10 anni a questa parte, guidata male. Tutto qui, io dico questo, guidata veramente male, è un gioco noioso. Io ho amici che vanno allo stadio, escono a metà partita perché sono stanchi di vedere passaggi all'indietro verso il portiere e lanci lunghi a scavalcare il centrocampo che non hanno nessun senso tattico. Beh, questa, infatti negli ultimi 10 partite il Torino ha fatto 3 punti, cioè abbiamo raccolto pochissimi gol. Questa è certamente la sua opinione, che è diversa dalla mia. Poi il calcio è bello perché vario, secondo me Ventura è un grandissimo allenatore e il Torino ha fatto una grande mossa nel confermarlo per gli anni a venire. Ha una grande covata di giovani, di giovani talenti. È chiaro che non è una squadra da scudetto, probabilmente neanche da zona UEFA, ma dire che Torino sta giocando male, che è noioso per colpa di Ventura, secondo me è una lettura un po' fuorviante. Vale di più quella di prima che abbiamo dato. No, al Torino mancano i gol di Quagliarella, degli attaccanti Quagliarella, Maxi Lopez e Belotti, il quale grande colpestivo non sta dando nulla. Ci fermiamo qui, ragazzi. Domenica dalle 17 alle 19 tutti convocati weekend con il sottoscritto Giovanni Capuano, e poi lunedì di nuovo tutti convocati. Giorgio De Luca, il nostro autore, Federico Bini in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti. Perciò sai che vi dico, passate una bella serata. Lupi lupi sono finiti, forse i tempi cupi. Ciao.